Amore, amore, amore, amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore, voglio restare con te se non me moro, voglio restare se non me moro, voglio restare con te se non me moro. Non piagni amore, non piagni l'amore mio, non piagni e statte zitto su sto cuore, ma si te fa soffrire me lo pure, quello che mai da dì in me lo pure.